Buonasera agli ascoltatori di Radio Alma, rieccoci in onda con una nuova puntata di Noi Volevamo Savoir, un nuovo lunedì, una nuova puntata, quindi un nuovo viaggio sempre su Radio Alma, sulla frequenza 101.9 FM. Questa sera con me in regia c'è Roberto Giava, Buonasera a ciao. tutti. E questa sera con me, come sempre, un ospite con noi. Questa sera siamo andati a cercarlo in Inghilterra. Julian, benvenuto a Radio Alma, benvenuto a Noi Volevamo Savoir. Grazie, buonasera. Julian, inglese di dove? Inglese, da vicino a Londra. Inglese, questo è già interessante come precisazione perché l'idea appunto è di chiederti durante la trasmissione un po' cosa ne è rimasto della vecchia Inghilterra, che cosa vuol dire essere inglese, cosa vuol dire essere british, eccetera, eccetera. Ma prima di parlare di tutto questo, una tua veloce presentazione, Julian, Ah, cosa ci fai qui a sì, Bruxelles? sono qui da 5 anni più o meno, faccio come giornalista, traduttore e poi redattore di articoli, sì, cose del genere. 5 anni fa quindi sei arrivato a Bruxelles, Sì. portato, spinto da cosa, portato da chi, costretto da chi? Per un lavoro, Per motivi di lavoro hai sì, deciso? per un interesse nell'Unione Europea. Un inglese o un interesse Sì, nell'Unione Europea? Questo dobbiamo parlarne allora. Senti, da inglese, beh, quindi venivi da Londra, certo non il posto più soleggiato del mondo, però l'arrivo a Bruxelles sotto questo punto di vista com'è stato? Il come sono? tempo, È il parlo tempo del tempo a Bruxelles, a Londra meteorologico, è più o ovviamente. meno lo stesso, Quindi direi. non è stato un grande No, shock? no, no. Per tutto il resto, invece, venendo a Londra, la grande metropoli, arrivare a Bruxelles, com'è Sì, no, andato? è molto meglio, per esempio, con il trasporto. Ah, Il metro è ok, trasporti impossibile, pubblici. sì, a Londra è impossibile, è come i sardini nel Come le metro, sì. sardine, come le sardine E nella qui metro. c'è molto più spazio e è molto più tranquillo. È una città molto più vivibile. Sì. Ok, siamo riusciti ogni settimana, in ogni puntata riusciamo, nonostante qualche parente, sempre comunque a tirar fuori il meglio di Bruxelles. In questo caso è vero, la vivibilità di Bruxelles. Julian, io direi facciamo subito una pausa musicale, un po' di musica per i nostri ascoltatori e poi ritorniamo in studio e ci lanciamo alla scoperta dell'Inghilterra, del tuo paese. Lei è bella, lo so, voglia di piangere, ho messo quei nuvole, la faccia triste dell'America, Rieccoci in onda, siete sempre all'ascolto di Noi Volevamo Savoir, un nuovo lunedì, questa sera in compagnia di Julian, il nostro amico, il nostro ospite inglese di Londra. Julian, ci hai detto subito all'inizio di trasmissione, sei arrivato qui 5 anni fa per un lavoro, per interesse, per l'Unione Europea. Lo sai che noi europei d'oltremanica, noi continentali abbiamo sempre un po' l'idea che gli inglesi, i britannici in generale, siano un po' scettici verso l'Unione Europea. Tu come lo vedi questo rapporto sempre difficile tra UK, tra il Regno Unito e l'Unione Europea? Sì, è vero. Per me la maggiorità del tempo gli inglesi non li interessano Quindi è l'Unione vero, Europea. è proprio come Se, sembra. no, quindi, se vedi i giornali c'è piccole cose sull'Unione Europea. In Italia, in Francia si scrive di più. Da voi spesso e volentieri magari qualche scandalo contro l'Unione Sì, Europea. questo sì, ci sono molti giornali che vogliono le cose scandalose perché pensano che non interessa ai cittadini le cose dell'Unione Europea. E non sono totalmente d'accordo con questa idea. È un po' peccato che non vogliono fare un po' qualche volta qualche cosa positivo, sempre negativo, mi pare, in generale, Però l'opinione della gente, questo è, diciamo, i no? giornali, invece l'opinione vera della gente, secondo te sarebbero pronti ad ascoltare, a sentire un po' di più cosa succede a livello dell'Unione Europea, voglio dire? Credo di sì, ma il problema è che, no, è vero, il problema è che fare che queste decisioni siano interessanti è difficile, Questo è perché vero, è è difficile per abbastanza tutti, è complicato, è vero. abbastanza teorico e ipotetico e non è facile, ma ci sono esempi, no, ci sono esempi come la missione dell'Unione Europea nella In Georgia, per Georgia, questa esempio. E no, si è più parla di concreta, questo, ma non come un grande. per esempio, non hanno parlato molto di una missione civile dell'Unione Europea in Afghanistan. Non Non si si. non si sa molto di questo. Ecco, è interessante perché ci sono, suppongo, inglesi che sono in questa missione. Senti, all'origine immagino un po' di tutto questo, comunque c'è forse anche la solita ragione geografica che dicono, cioè il fatto di essere un'isola, quanto ha influito secondo te su questo? In generale quanto pesa sulla pesa, influisce in modo positivo anche sul fatto, sull'essere inglese, sul modo di essere di voi inglesi britannici? È un po' questo, è un po' la lingua, perché la lingua franca è inglese. Quindi gli inglesi pensano che non debbono non ci sia bisogno di imparare altre lingue, che è un po' vero, che non è necessario. E quindi c'è questo. Avete avuto questa fortuna, certo, bene sfruttarla. Ah, mi interessano le lingue da latino nella scuola, mi è piaciuto il latino. Studiate il latino in Inghilterra? Sì. E questo fino a un certo punto nella scuola io arrivavo in come 24 posizione nella classifica. Okay. E poi con il latino, con l'introduzione, hai scalato la classifica alla quarta posizione, terza posizione. Senti, a proposito di latino, una domanda così mi viene, pensavo, ho letto proprio in settimana, c'è stato un articolo, io l'ho letto su un giornale italiano, in cui uno studio, credo fosse del Times, diceva appunto gli inglesi dovrebbero ringraziare i romani per il background culturale che i romani, gli antichi romani hanno dato all'Inghilterra all'epoca, insomma, della invasione dell'Inghilterra. Non c'era questo, non l'hanno riportato i giornali inglesi? Non ho visto non ho visto. Ma no, è vero, ci sono molte parole in inglese che vengono da questa epoca. Infatti ci sono molte parole di tutte le lingue in inglese. È una lingua che mangia tutto. E che li ha mangiati per poi superarli, appunto, ha preso da tutto per poi diventare la lingua ufficiale, insomma, come hai detto tu, la lingua passepartout, sì, ovunque. Sì. Senti, ritornando sempre appunto all'Inghilterra, perché appunto ne approfittiamo, abbiamo un inglese di Londra in più qui a noi, volevamo savoir, lo cerchiamo di indagare in questo rapporto tra inglesi, abbiamo appena detto inglesi ed europei, però vediamo anche di capire la differenza inglesi, scozzesi, gallesi, irlandesi del nord, insomma questo Regno Unito cos'è e cosa rappresenta oggi secondo te? Sì, è abbastanza però è vero che noi vediamo soprattutto si parla, per esempio ora si parla ancora più dell'indipendenza o di della Scozia, che loro vogliono l'indipendenza, che non si parla molto per i gallesi, ma solo perché sono meno indipendentisti, o perché comunque adesso l'attenzione della stampa è più verso credo, no, è difficile, forse che loro sono più realistici o forse che è necessario essere parte di un qualcosa di più grande. O forse perché non hanno uno Sean Connery e un film come Braveheart che ha reso tutto così così epico. Ma anche c'è qualcosa di interessante culturalmente in Gran Bretagna. Dicono i gallesi, scozzesi, che quando c'è un grande giocatore di qualche cosa che fa bene, gli inglesi dicono che questo è nostro, è un britannico. Per esempio Murray è un tennista scozzese, quindi gli inglesi se ne sono appropriati dicendo dicono gli scozzesi, ma io non sono d'accordo, perché per esempio Murray mi piace, ma io so perfettamente che è scozzese, è diverso, non è inglese, ma è britannico. È britannico. Ma e anche durante i partiti di calcio, per esempio, gli inglesi molte volte dopo Inghilterra vogliono che la Scozia o i gallesi vincono. Sì, ma non è lo stesso, passione contraria. Vabbè, è il rapporto fratello più piccolo, fratello più grande, forse inevitabilmente. Voi siete un po' più generosi, nel senso che forse avete avuto di più, siete ancora i più grandi, allora è più facile. Sì. Perché appunto è tanto, soprattutto nello sport, che si vede questa grande rivalità, però appunto tra inglesi, scozzesi, gallesi, anche se poi Beh, magari ne parleremo anche un po' più là dello sport, però amano gli inglesi, gli scozzesi, i gallesi, amano gli stessi sport. Per esempio il rugby è possiamo dire una passione di tutto il Regno Unito. Sì, sì, era una passione particolarmente dei gallesi, che negli anni 70 hanno vinto tutto. Ma poi negli anni 80-90 i gallesi non hanno vinto molto, e poi ora cominciano a vincere di nuovo. E in Scozia sì, è molto popolare come sport, e anche in Irlanda, sì. Senti, dicevi prima, senti appunto la differenza con gli scozzesi, allora quando ti domandano, ti chiedono di dove sei... Sei inglese, cosa rispondi? Perché noi vediamo sul vostro passaporto avete tutti la nazionalità British, giusto? Però se ti chiedono di dove sei? Sì. Sono credo di domanda direi di sono, sì, no, direi sono inglese. Non ti preoccupare, in Inghilterra non ci ascoltano. Sfortunatamente Radio Alma non arriva ancora in Inghilterra. No, direi sono britannico alla fine, credo. Ma no, è vero, è un alla fine ho due identità. Alla fine sono più inglese che britannico, certamente. Senti, un'ultima domanda prima di fare un'altra pausa musicale. Abbiamo visto, come dire, stiamo facendo un po' le relazioni internazionali dell'Inghilterra. Abbiamo parlato di Inghilterra contro l'Unione Europea, Inghilterra al suo interno contro Scozia, Galles, eccetera, eccetera. Si dice anche spesso che, come dire, l'Inghilterra abbia un feeling particolare, il Regno Unito abbia un feeling particolare con l'America, un po' per questo, come dire, si sente più lontana all'Unione Europea perché è molto più vicina all'America. Tu come lo vedi questo rapporto inglesi-americani? Sì, sì, no, è veramente per me l'Inghilterra è divisa, un po' divisa in due, che non sa... Le due sponde dell'oceano. Non so dove andare, perché... In termini del mercato è molto più vicino all'America, per le canzoni, per molte cose più vicino all'America, ma anche più vicino all'Europea, per all'Europa continentale, per il rugby, per il calcio e per altre cose. Una nazione divisa in due. Sì. Julian, fermiamoci un attimo qui, mettiamo un po' di musica e poi torniamo in studio, sempre per parlare del tuo paese, dell'Inghilterra. Rieccoci in onda, siete sempre all'ascolto di Noi Volevamo Savoir sulle frequenze di Radio Alma 101.9 FM. E allora, questa sera abbiamo qui in studio con noi Julian, un ragazzo inglese di Londra, e allora ci siamo tolti parecchi dubbi sugli inglesi, come rapporto agli altri, i rispettivi, come dire, scozzesi, gallesi, irlandesi del nord, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo indagato un po' di cose, le classiche domande che ci vengono in testa quando, insomma, ci domandiamo perché gli inglesi sono così restii a sposare l'ideale europeo. Parliamo però adesso, abbiamo parlato di questo, scopriamola un po' di più allora, la tua Inghilterra, Julian, e anche la tua Londra. Quindi, prima di venire qui a Bruxelles, vivevi a Londra? Quanto tempo hai vissuto a Londra? Nato, vissuto e cresciuto, sì, a Londra? Sì, esatto. Londinese, sì, doc? Londinese, fuori, un po' fuori di Londra. Un po' fuori di Londra. Sì. Un po' fuori di Londra. Sì, sì, un po' fra il campo e Londra. Quindi non lontano dal campo. Okay, dalla campagna? Dalla campagna, okay. Sì. Allora mi fornisci, come dire, l'assist per una domanda. So che un po' in Inghilterra, come forse succede in Francia, come credo che non succeda a noi in Italia, Londra è un po' il centro dell'attenzione del paese, per il mondo direi, o comunque per tanti, per noi in particolare. L'Inghilterra è molto Londra, quasi la identifichiamo con la sua capitale. Questo come è visto dal resto degli inglesi, quelli che abitano non a Londra, lontano da Londra? Cioè, che rapporto c'è tra Londra e il resto dell'Inghilterra, sì, secondo te? Sì, non sono molto contenti qualche volta. L'eterna storia, perché sì, appunto in Francia, mi dico, avevamo qualche tempo fa un ragazzo francese, abbiamo ospitato, parigino, ed era l'eterna lotta, insomma, dei, diciamo, i più piccoli contro i più grandi, appunto non contenti di essere identificati, che i francesi venissero identificati con Parigi. Dicevo, in Italia forse per noi è un poco più, è un po' diverso, perché non so quanto in realtà uno straniero, quello me lo puoi dire tu, identifichi l'Italia solo con Roma. Ci sono anche tante altre città con le quali facilmente, voglio dire, anche facilmente fanno pensare. È anche una cosa interessante che succede in Italia, che forse sarebbe una buona idea in Inghilterra, è per avere lo stadio per la squadra nazionale che va da città a città. Invece, sì, cambia in Italia, sì, e l'Inghilterra è sempre a Londra, sempre a Wembley. Wembley, sì, sì. Ah, no, questa è effettivamente una cosa fatta, sì, soprattutto un po' perché abbiamo, non so come in Inghilterra, tanti stadi, tante città, ma l'idea è proprio di portare a nazionale, soprattutto magari quando ci sono le amichevoli, le partite meno interessanti, insomma, dove comunque probabilmente l'Olimpico di Roma non sarebbe riempito, insomma, di portarlo in città. Esatto. Sì. Questa, no? È anche un po' peccato che negli giochi olimpiaci, giochi olimpici, i britannici non hanno una squadra di calcio, e questo è per motivi politici. Che gli scozzesi, cioè per i giochi olimpici, non ci sarà una squadra di calcio in Londra 2012, forse, ma non sappiamo. E come mai questo è interessante? Per la motivazione politica? Perché le federazioni scozzesi e gallesi hanno paura che alla fine finisci con una squadra britannica e non ci sarà più una squadra scozzese o gallese. Ah, ok, quindi l'idea originaria era magari per le Olimpiadi di avere una squadra comune del Regno Unito, era questa un'idea che volevano provare a fare, e al momento non è stata approvata come idea? No, sì, esatto, è che finora non lo hanno fatto. Per queste paure della Scozia, dei gallesi. E forse per, forse per le Olimpiadi. Forse, vediamo. Parliamo, senti, Julian, di queste Olimpiadi. Io avevo degli amici francesi nel periodo in cui si decideva appunto l'assegnazione delle Olimpiadi 2012, tra credo che fossero le ultime due rimaste, erano appunto Parigi e Londra. Il grande scontro è stato tra Parigi e Londra. Come ha vissuto Londra questa, come dire, la battaglia prima e la vittoria poi dopo, quando è arrivata la notizia? Sì, generalmente con grande gioia, credo. Contro i francesi, penso meglio non avrebbe potuto essere. Sì, sì, sì. Ma un po' dopo, io credo, molta gente ha pensato che alla fine questo va a costare abbastanza soldi, e forse sarebbe meglio che spendiamo questi soldi in altre cose. In altro. Forse. Quindi... sì, una c'è stata qualche gioia al momento di festeggiare, però c'è stato qualche dubbio subito. Sì, e poi credo i costi cominciano a lievitare. Sì, quindi c'è abbastanza un po' di scetticismo adesso. Sì, tra... sì, ma alla fine dipende di sì, le autorità possono costruire le cose che resteranno per dopo, gli stadi che saranno utilizzati dopo. Anche dopo, sì. In questo caso è interessante. E se possono migliorare il sistema di trasporto pubblico. Quello che appunto menzionava all'inizio della trasmissione, che è un po' disastroso in questo. Sì. Senti, Londra è già una città così grande, così vasta, già così distesa. Ormai Londra ha abbracciato anche i piccoli paesini attorno. Il villaggio olimpico, le Olimpiadi, tu sai dove si svolgeranno? È una grande città come Londra, non so, mi riesce di... difficile immaginare, non so quante persone concretamente arrivino durante un'Olimpiade, però una gran parte sarà al est di Londra, in un'area dove c'è un po' di abbastanza povertà, eccetera. Quindi l'idea di rilanciare questa zona. E poi ci saranno anche lo sport a Portsmouth per il velismo. Per la vela, la vela. Okay, quindi sulla Manica. Credo il ciclismo sarà a Manchester, credo. Quindi hanno cercato un pochettino di coinvolgere un'altra tutta l'Inghilterra. Esatto, sì. Ma abbiamo fatto un gran giochi olimpici in Beijing per noi. A Pechino, come è andata, andata la, la spedizione britannica? No, alla fine erano in quarta posizione, dopo la Cina, Stati Uniti e Russia, vero? Russia. Sì. Ma lontano dalla Francia, che è buono, okay. Gli inglesi, e anche più importante dagli australiani. Ah, perché c'è vero, un po' di una grande rivalità sì. con gli australiani. È abbastanza, mi ha fatto sorridere un po', gli australiani nei giornali hanno detto che i britannici sono forti, ma solo nello sport dove si siede. Ma dove si sta seduti? Cioè, di quali sport? Sì, come il ciclismo, la vela, remare anche. Canottaggio. Sì. Senti, è vero, prima abbiamo forse dimenticato questo punto, abbiamo parlato del rapporto con l'America, del rapporto con l'Europa, eccetera, eccetera, però c'è un altro rapporto interessante che è quello dell'Inghilterra, del Regno Unito, la Gran Bretagna, con i paesi del Commonwealth e con l'Australia in primis probabilmente, ma anche con la Nuova Zelanda. Come sono questi rapporti? C'è il senso di appartenenza a questo Commonwealth, secondo te? Sì, c'è una grande rivalità nei sport. Soprattutto direi e, molti australiani e neozelandesi vengono all'Inghilterra per vedere il suo passato, il passato, okay, l'origine, dove tutto è cominciato, un po' per guadagnare un po' di soldi per poter viaggiare in Europa, in Europa continentale, anche per vedere. E molti lavorano nei bar, nei ristoranti, e gli australiani vivono, dicono in quattro, molte volte in abitazioni che sono per due o uno. Questo è un po'. Senti Julian, fermiamoci un attimo, mettiamo un po' di musica e poi torniamo di nuovo in onda, di nuovo in studio con noi, Levan Savoir. Rieccoci in studio, siete all'ascolto di Noi Volevamo Savoir. Questa sera il nostro viaggio intorno all'Europa ci ha portato alla scoperta dell'Inghilterra. Abbiamo qui con noi ospite in studio Julian, un ragazzo londinese. Stiamo parlando dell'Inghilterra, Julian, e allora ti risparmierò questa volta la domanda classica agli inglesi, è se veramente gli inglesi bevono il tè alle 5, però ormai abbiamo capito che questo non è più così vero. Però almeno di una cosa siamo sicuri: il calcio è ancora la passione nazionale inglese. No, c'è anche solo te. Solo che beviamo molto caffè ora. Avete cominciato a bere il caffè? Il caffè Nescafè piuttosto, che non piacciono agli italiani. E anche facciamo un'altra cosa che non piace agli italiani, credo. Che io, per esempio, qualche volta la cena. Dopo cena? Per esempio io prenderei un cappuccino. Un cappuccino. Oh, no. Sì. Sì, è vero, noi italiani dopo pranzo e dopo cena il cappuccino è una cosa che non riusciamo. Siamo felici di aver, come dire, esportato le buone tradizioni, il caffè e il cappuccino in generale, però per noi il cappuccino è la mattina con il cornetto e basta. Sì. Sì, sì. Senti, vabbè, ok, quindi il caffè sta prendendo il sopravvento, Starbucks arriva pure in Inghilterra, sarà soprattutto quello. Però la vecchia Inghilterra resta fedele ad alcune tradizioni. Parlavamo prima del rugby sicuramente, e il calcio immagino ancora di più. Dicono che esportiamo molti sport, che inventiamo molti sport e dopo gli altri paesi ci vincono. Vi superano. Sì. È vero, perché il calcio è un'invenzione inglese e poi, insomma, negli ultimi tempi vi siete un po' persi. Soprattutto mi dico, vabbè, per quanto riguarda la nazionale, l'Inghilterra che non vince da così tanto tempo. Io credo c'è un po' una relazione inversa fra i league inglesi. Tra la Lega, Se la Lega va molto bene, che attraiono molti giocatori stranieri, che guadagnano molti soldi in Inghilterra, e poi forse c'è un po' meno spazio per i giocatori inglesi, che un po' per questo motivo non va bene. Però adesso vi diamo una mano, vi daremo una mano noi italiani, no? Vi abbiamo mandato il nostro migliore allenatore, o almeno così sembra, Fabio Capello, un italiano alla guida della nazionale inglese. Non è un po' strano? Un po' strano perché all'inizio non parlava inglese, credo. Non è una sorpresa per noi italiani. Ma ora ha imparato abbastanza e parla in inglese, credo, alla prensa. Alla stampa. Ma Fabio Capello per ora non si sa un po'. Lui ha fatto un buon risultato recentemente, ma prima ha fatto uno o due che non erano molto buoni. Quindi la critica si è scagliata contro di lui? Non ancora, ma il problema con la stampa britannica, non so come con la stampa italiana, ma la stampa britannica le piace molto dire che qualche persona è il meglio del mondo, e poi quando perde buttarlo giù. Sì, esatto. Sì, è brutale, molto brutale. Senti, però questo fatto, qua arriviamo un po' all'oggetto dei rapporti tra Italia e Inghilterra. Il fatto che appunto un italiano arrivasse alla guida della nazionale inglese, come è stato vissuto dagli inglesi? Cioè, comunque. Sì, ma abbiamo avuto un svedese prima, Sven-Göran Eriksson. Sì. Quindi uno straniero non uno era straniero, okay. Problematico. Un italiano neanche, credo. Neanche? No, okay. Credo la gente accettava che questo potrebbe aggiungere qualcosa, lo spagnolo, aggiungere qualcosa alla squadra. Ma invece io credo Capello preferisce giocare sulle forze, sulle cose che gli inglesi fanno bene, puntare quindi su quella che è la tradizione inglese, perché appunto questo è un poco strano. E qua vediamo pure, io sento spesso miei amici inglesi che criticano un po' il calcio italiano, il modo di essere degli italiani in campo, che rappresenterebbe un po' il modo di essere degli italiani anche fuori dal campo. Il calcio italiano come è visto lì in Inghilterra? Per me è un po' peccato che nei grandi campionati, quando l'Italia gioca, che è come se ha un po' paura di perdere, che giocano in maniera molto difensiva. È un po' peccato per me, perché possono giocare più, hanno un all'attacco. Gioco più, sì, e non lo fanno. È sempre un po' peccato. Preferirebbe che gli italiani giocano apertamente. No, questo è vero, siamo molto, insomma, un po' difensivisti, e questo è vero. Probabilmente, come dire, il comandamento numero uno degli italiani in campo è non perdere, se si può magari vincere. E invece voi inglesi, no, arrivano convinti, pronti alla vittoria, diciamo, come 11 leoni in campo. Credo che non sanno difendere. E allora l'unica soluzione è che, come la Liga Premiership, che tutto è giocato a una rapidità, un gran rapidità, che il problema è un po' con la nazionale, è che quando giocano in nazionale vogliono fare come l'Italia e giocare cambiando i ritmi. Non so se vi potete adattare a questo. No, non riescono a fare questo. Senti, Julian, ok, siamo arrivati, come dire, al cuore della nostra trasmissione. Italia, Inghilterra, come ci vedo in generale, ora indipendentemente dal mondo del calcio e dalla metafora del calcio, che comunque spesso è utile per capire un popolo, un paese, come ci vedono gli inglesi, come sono visti gli italiani, che cosa si sa di noi italiani, insomma, come è più la cosa più direi, tutto sanno che c'è qualcuno che si chiama Silvio Berlusconi. Ok, questo... che ha una certa reputazione di, con la televisione, con... sì. E poi anche la Toscana, perché no, per esempio Tony Blair sempre è andato a in vacanza. Il nuovo amore degli inglesi appunto sono le colline del Chianti. Sì, sì. Quindi com'è? Un rapporto di... non so, per noi certe volte è difficile capirlo. Amate molto il nostro paese quando si tratta magari di venire in vacanza, però in realtà di noi italiani amate poco, com'è? Sì, direi che c'è un po' di scetticismo anche, anche verso sì, gli europei continentali in generale, ma sì, soprattutto gli italiani, forse perché c'è una idea che sono troppo amicale e che forse vogliono qualcosa, no? Senti, è un po' sì, è questo paranoico, ma l'inglese è piuttosto è molto più difficile da conoscere un inglese, io direi. Sì. Ma poi dopo un po' forse va è più leale, più tranquillo, sei più sicuro. Forse. E anche parlando ci sono gli stereotipi, no? Stiamo generalizzando. Sì, però sì, allora, Giulia, toglimi un dubbio, qualcosa che ogni volta che sento mi fa un po' come dire, storcere il naso, diciamo. E forse magari tu mi puoi spiegare. Allora, gli inglesi sono molto scettici, era questo, sulla televisione italiana, il nostro modo, insomma. Un po' questo, devo dire, è comune a tanti altri paesi. Criticano tanto le nostre ragazze, insomma, nude o quasi nude in ogni programma di politica, di economia, come di sport, come eccetera eccetera, quindi quando magari non è necessario eccetera. Però io allora mi sento da italiana dire, allora queste terze pagine dei giornali inglesi, giornali scandalistici inglesi, insomma, voi per altre vie insomma siete, non so, mi sembra di poter dire, cercate più o meno di colpire l'occhio del lettore su certe, come dire, su certe fisicità, su certi aspetti. E allora perché solo Porta a Porta è negativo come programma? Parli del The Sun, sì? Sì, di alcune, sì, The Sun in particolare, sì, credo qualche... Sì, cioè, spesso apre la terza, sì, apre il giornale inglese, insomma, o i cosiddetti appunto i giornali, tranne, sì, voglio dire, insomma, non tutti leggono il Financial Times in Inghilterra, ci sono i giornaletti un po' più da gossip, scandalistici. Sì, in generale credo che i giornali dappertutto nel mondo vadono più verso questa, sì, sexy, no, sì, è sempre importante avere una donna, o qualcosa, o può essere una storia che è molto scandalosa, piccante, come Max Mosley. Come quella di Max Mosley, sì, il presidente della Formula 1 che è stato, sì, insomma, colto durante. Sì. Sì, ma qualcosa che non mi è piaciuto molto con la televisione italiana, che mi piace molto i documentari, le notizie, le cose sulle notizie, e qualche volta guardo Porta a Porta. Mi, sì, piace molto, abbastanza, ma recentemente ho vissuto un programma con due hai visto un ministro di non so che cosa, un deputato, e hanno parlato allo stesso tempo e non ha capito perché il moderatore non ha cercato... intervenuto. È vero, questo è un po' perché non si capisce nulla. Questo è vero, che è un po' le trasmissioni italiane. Puoi spiegare perché il moderatore non... Questo, non sì, te lo spiego forse un po' senza... È vero che da statistiche dei giornali italiani la rissa in televisione fa molto ascolto, purtroppo, quindi molti seguono questa... Anche se non capisci niente, in realtà se vedi che c'è un battibecco, soprattutto che due ministri, un ministro e un parlamentare, ovviamente l'opposto schieramento, insomma, si lanciano in grandi, insomma, scontri... Questo fa ascolto, e come sempre torniamo al punto di prima, insomma, la si segue, se più ascolto è meglio è, a scapito appunto della qualità. Ma tu, a parte Porta a Porta, la guardi un po' di televisione italiana, Julian? Sì, sì, a parte questo. A parte, oltre Porta a Porta, c'è qualche altra cosa che... No. Il tuo programma preferito allora è Porta a Porta? Sì, poi forse le notizie. Senti, ma puoi mi dare una raccomandazione? Ma devo dire la verità, Rai 1 non è proprio, siccome qui a Bruxelles io guardo, rimano soltanto insomma Rai 1, non ti so dare tanti consigli. Però Giulia, ne voglio ancora approfittare questa sera, abbiamo ancora qualche minuto, ok, la televisione italiana forse insomma magari non te la so non te la posso raccomandare neanch'io, però io voglio sapere, non abbiamo ancora detto ai nostri ascoltatori, com'è che tu, stiamo parlando tanto di Italia con te, com'è che parli italiano, perché ti appassioni all'Italia, insomma com'è nato tutto questo, cosa sai dell'Italia insomma? Sì, no, era dopo l'università ho studiato francese e lo spagnolo e non so, c'erano gli amici che hanno studiato l'italiano e era una bella lingua e mi piace l'istoria dell'Italia e poi e pian piano così ti sei appassionato. Sì, ho deciso di imparare l'italiano nelle lezioni di sera e poi ho fatto una diploma nell'interpretazione dell'italiano e del francese all'inglese. Senti, la tua prima volta in Italia, qual è il tuo posto preferito in Italia? Parlaci un po', la tua Italia, insomma. Prima volta, non mi piace. La volta più bella, non ti ricordo, sei anche dimenticato la prima volta. Sì, no, ok. Forse in Folgarida. Folgarida, quindi in Trentino, sulle sì, Alpi. Sì, no, è che è un po' strano che prima di andare ho cercato un lavoro per una ditta di ski, mm-hmm. Sì. E loro cercavano qualcuno che sapeva sciare e l'italiano. Io non sapevo sciare e non parlavo molto italiano, ma alla fine ho avuto il lavoro. quindi ho potuto imparare l'italiano e imparare a sciare. Perfetto. Senti, dopo sì. Quindi la tua prima volta a Folgarida, il posto, sì. Anche tu sei un appassionato della Toscana, qual è il tuo posto preferito in Italia? Posto preferito? Ci sono molti, credo. Non questa è una bella risposta, ci fa piacere, sì, non volevo limitare, no, non volevo sì, limitare no. la scelta. Mi è piaciuto Siena, ho passato 2-3 mesi a Siena, e Firenze, e Roma, e Napoli e... anche Napoli, sì, ok, sì. Ok, siamo arrivati anche questa sera a riuscire a far dire la magica parola Napoli al nostro ospite. E allora, contentissima di questo, mi fermo qua, ci dobbiamo fermare purtroppo, Julian, sono le 9. Noi Volevamo Savoir finisce qui, grazie mille Julian per essere stato con noi, grazie a Roberto per essere stato con noi stasera e come sempre appuntamento a lunedì prossimo alle 20 su Radio Alma 101.9 FM. Sopra la musica, ora il tuo corpo si muove. Può essere l'ultima buona occasione per me.